Mio caro figlio, ho sognato di voi giorno e notte. Non sapevo più se la mia era vita o morte. Volevo tornare a riabbracciarvi, te e la tua mamma. Perdonami, bambino mio, per questa morte ingiusta che ti toglie il padre quando sei ancora in così tenera età. Possono bruciare i nostri corpi oggi. Non possono distruggere le nostre idee. Esse rimangono per i giovani del futuro, per i giovani come te. Ricorda, figlio mio, la felicità dei giochi. Non tenerla tutta per te. Cerca di comprendere con umiltà il prossimo. Aiuta il debole, aiuta quelli che piangono. Aiuta il perseguitato, l'oppresso. Loro sono i tuoi migliori amici. E mi suona male! Dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato. Non ho mai versato sangue umano. E mi suona nato! E mi suona nato! Ho combattuto per eliminare il delitto. Primo fra tutti. Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa, nessuno. Una frase, signor Katzman. Mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. E mi su una nave. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. E mi sono anarchico. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto. E se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Io compagno nipote. Si può darsi che a parlare io vada meglio di lui. Quante volte, guardando, pensando, ma quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete, quando le sue ossa, signor Tyre, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni, non saranno che il ricordo di un passato maledetto, il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. È tanto facile spiegare così. Hai capito la domanda? Vuole l'interprete? No, non c'è. Capisco lo stesso. Allora risponda con un sì o con un no. Sì. Lei amava questo paese. Ma quando si è trattato di servirlo come soldato, non è fuggito in Messico? Mi lasci spiegare. Risponda sì o no. È andato in Messico per evitare di fare il soldato per questo paese che ama. Ma io sono un operaio. È andato o non è andato in Messico nel maggio del 1917? Sì, ci sono andato. Finalmente. Ce ne vuole per avere una risposta da lei. Perché ci è andato? Perché sono un operaio anarchico! E che significa? Significa che gli anarchici pensano ad un mondo senza frontiere. Capisco. Noi siamo obiettori di coscienza. Lei lo ama, il governo degli Stati Uniti? Io non amo il governo degli Stati Uniti. Per questo lanciate bombe contro i ministri, i banchieri, lo Stato. Io non ho mai lanciato bombe. Io non ho mai sparato a nessuno. Lei non lancia bombe. Non crede nelle bombe, allora? Io credo nell'anarchia. Ma che razza di anarchia è quella in cui lei crede, signor Vanzetti? Lo vuole spiegare alla corte? Anarchia significa libertà. Abolizione della società divisa in classi. Rispetto degli altri. Per me, queste sono le cose che contano nella vita. E su queste cose io ho cercato di vivere la mia vita. E mi sono nato. Grazie alla benevola tolleranza della corte, avete potuto ascoltare dalla voce degli stessi imputati cosa pensano delle nostre istituzioni. Ora mettete insieme quanto avete udito a quanto avete visto documentato poco fa. Ed è soltanto una minima parte dell'attività dei rossi e degli anarchici contro il nostro paese. A questo punto. E noi sono anarchici! Come vuole la legge, io ti dichiaro morto.